alebrijes es sol. Ogni momento è il suo male, ogni momento è il suo svolgersi. Che pensiamo se non c'è progresso? Che pensiamo se non investiamo né speranza di interesse composto, né speranza di restituzione retroattiva? Ogni momento è il suo male, ogni momento è il suo svolgersi. Che pensiamo che la coerenza sia lo Spirito Santo. Certe le azioni di un momento nello spazio, certi dei passaggi di un futuro lontano, specifica l'investimento dal passato provvisorio, specifica il ritorno nel tempo circostante. Alebrijes es sol nel tempo, già catturato, riflessi dorati di guadagno in lontananza. Alebrijes es sol, insolito l'investimento, il modo di cambio sconosciuto all'interno, ogni momento il suo male. Ogni momento il suo svolgersi, che pensiamo se non c'è progresso, che pensiamo se non investiamo, né speranza di interesse composto, né speranza di restituzione retroattiva. Ogni momento il suo male, ogni momento il suo svolgersi, che pensiamo di non appoggiare le nostre azioni. Il Cavaliere.